Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Chelsea Quinn Yarbrough è una scrittrice americana che ha dedicato più di 20 romanzi al personaggio del conte di Saint-Germain, un vampiro millenario ispirato ad un misterioso alchimista boemo realmente esistito nel XVII secolo. In uno dei racconti che compongono le cronache di Saint-Germain, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il giornalista americano James Emerson Tree è rimasto vittima di un terribile incidente. James si rifugia presso la casa di Madeleine de Montaglia, con la quale aveva una relazione, ma qui vi trova il conte di Saint-Germain, che gli rivela la sua vera natura. Il conte si alzò lentamente dalla sedia e attraversò la stanza avvicinandosi a James. Il suo sguardo irresistibile non abbandonò neanche per un istante il volto del giornalista, e l'ordine pacato che gli impartì con voce ben modulata suonò ancora più autorevole per via dell'assenza di emozione. «Signor Tree, la smetta di ingannare se stesso. Quando quella jeep si è ribaltata, lei è stato scagliato in aria e ha subito delle ferite mortali. È rimasto a terra ed è morto dissanguato. Ma la morte è una malattia a cui siamo in parte immuni. Quando il sole è tramontato, lei si è svegliato nella vita di Madeleine, se vogliamo definirla così». Si fermò a meno di due passi da James. «Che ci creda o no, lei è un vampiro, signor Tree». «Ehi, no!» protestò James, arretrando goffamente di un passo da Saint-Germain. «E deve imparare a sopravvivere». James ridacchiò. «D'accordo, sono un vampiro, ma stando a quel che dice, lo siete anche lei e Madeleine». «Tra vampiri», proseguì Saint-Germain senza rispondere alla provocazione, «c'è un amore più duraturo. Pensi a come avviene il cambiamento e capirà perché. Ma una volta giunti nella nostra vita, anche l'espressione di questo amore cambia. Noi bramiamo la vita, signor Tree, e questa è l'unica cosa che non possiamo offrirci l'un l'altro». I modi di Saint-Germain si fecero più inflessibili. «Ascolterà tutto, signor Tree, o se ne pentirà». Aspettò che James si sedette di nuovo. «Come le ho già detto», riprese con lo stesso tono uniforme, «dovrà imparare a cercare quelli che rispondono a quello che lei ha da offrire. Perché noi offriamo moltissimo a quelli che amiamo, signor Tree. Lei sa quanto fondamentalmente intimo sia il suo amore per Madeleine. È questo che dovrà imparare a dare agli altri, se vuole sopravvivere». «Sopravvivere attraverso il sesso?» lo schernì debolmente James. «Freud ne sarebbe andato pazzo». Saint-Germain fece a malapena una pausa, anche se increspò le sottili sopracciglia per l'irritazione. «Sì, attraverso il sesso, se lo intende come una strada. Ma non è il sesso che deve cercare, piuttosto la vera intimità. Spesso il sesso è un mezzo per sfuggire all'intimità, poco più che togliersi un prurito. Non esiste esperienza più intensa, ed è questo che deve raggiungere, signor Tree». Piegò la testa da un lato. «Mi dica, come si sentiva quando stava con Madeleine?» Lo scetticismo abbandonò lo sguardo di James e l'espressione del giornalista si ammorbidì. «Vorrei poterglielo dire. Non sono in grado di esprimerlo. Mai nessuno. Già», convenne Saint-Germain con una certa tristezza. «Farà bene a ricordarsene in futuro». Nel camino, uno dei ciocchi crepitò e scoppiettò, riempiendo la stanza di un forte odore di resina d'abete. Una cascata di scintille volò sul pavimento di pietra, spegnendosi nel toccare terra. James deglutì e distolse lo sguardo da Saint-Germain. Voleva trovare un'obiezione logica e razionale da contrapporre all'uomo vestito di nero, per dissipare il terrore che lo stava avvolgendo, l'arrovellante certezza che quello che gli veniva detto era la verità. «Non ci credo», sussurrò. Saint-Germain aveva assistito a quello shock tante di quelle volte che ormai non ne veniva più turbato, ma semplicemente rattristato. Si avvicinò a James e abbassò lo sguardo su di lui. «Dovrà accettarlo, signor Tree, oppure dovrà morire della vera morte. In quel caso Madeleine soffrirebbe terribilmente a causa sua». «Morire della vera morte?» James si morse il labbro inferiore. «Come?» Tutto ciò che danneggia il sistema nervoso ci distrugge. Fuoco, schiacciamento, decapitazione o il tradizionale paletto conficcato nel cuore, che rompe la colonna vertebrale. Se sceglie di morire, ci sono molti modi per farlo. Lo disse usando un atteggiamento pratico, ma c'era qualcosa in fondo ai suoi occhi che portò James a chiedersi quante volte Saint-Germain si fosse trovato a rammaricarsi per la perdita di coloro che non avevano imparato a vivere, come affermava dovessero fare. E l'annegamento? L'acqua non dovrebbe... James si sorprese per aver posto la domanda. Aveva cercato di evitare di dare al conte il minimo credito e ora stava reagendo come se tutto ciò che aveva udito fosse plausibile. Imparerà a rivestire le suole e i tacchi delle scarpe con la sua terra natale e attraverserà l'acqua, camminerà alla luce del sole e di fatto condurrà una vita abbastanza normale. Siamo creature della terra, signor Tree. Quello che interrompe il nostro contatto con essa ci debilita. L'acqua è naturalmente la cosa peggiore, ma viaggiare in aereo è snervante. Fa sembrare tutto così banale, commentò James nel silenzio che seguì. Forse era proprio questo che iniziava a convincerlo, e per tale motivo cercò di schernirlo. La maggior parte delle vite sono banali, anche le nostre. Saint-Germain sorrise per la prima volta con calore. Noi siamo esentati dagli obblighi della vita, a meno di non vivere come totali emarginati. Alcuni di noi lo fanno, ma simili atteggiamenti non pagano. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Chelsea Quinn Yarbrough, Le cronache di Saint-Germain, Gargoyle Editore, 300 pagine, 16 euro. Una recente ricerca conferma la precoce predisposizione alla musica da parte dei neonati. Siamo una specie evoluta per la musica, letteralmente. La ricerca che potrebbe mettere la parola fine al dibattito sull'origine, innata o acquisita, della nostra capacità di riconoscere come tale la musica è firmata da un gruppo italiano guidato da Daniela Perani del San Raffaele di Milano, che ha fatto ascoltare musica classica a bambini da 1 a 3 giorni di vita, monitorando la loro attività cerebrale con una tecnica non invasiva come la risonanza magnetica funzionale. In questo modo si è visto che nell'emisfero cerebrale destro dei giovanissimi ascoltatori si attivano gli stessi sistemi neurali presenti in adulti esposti da tempo alla musica. Ma non basta. I bambini hanno reagito quando i brani scelti per l'ascolto, musiche di Mozart, Schubert, Chopin e altri, sono stati alterati o resi dissonanti. La ricerca, realizzata con il sostegno della Fondazione Mariani e pubblicata sui Proceedings of the National Academy of Sciences, confermerebbe che il cervello umano mostra fin dalla nascita una predisposizione all'ascolto di brani musicali. Studi come questi, osserva Perani, rappresentano un contributo importante per la comprensione degli aspetti musicali del linguaggio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paola Emilia Cicerone, Nati per la musica, dal numero 500, aprile 2010, del mensile Le Scienze. Letture di Radio 24. Dagli articoli di cronaca nera inventati da Mark Twain ai diari di Hitler, dalle lettere di Kennedy ai romanzi di J.T. Leroy, la storia della letteratura è piena di falsi letterari. Tra i generi più diffusi, i falsi racconti di sopravvissuti dell'Olocausto e le false biografie di malati di AIDS, che a volte riescono ad aggiungere orrore alla tragedia, come nel caso del giovane Tony Godby Johnson, che aveva rivelato di essere diventato sieropositivo dopo aver subito ripetute violenze sessuali. Peccato che sia il personaggio che la sua storia fossero semplicemente frutto di fantasia. Nel 1993, un 14enne del New Jersey, malato di AIDS, scrisse un libro autobiografico che gli portò una notevole celebrità e che portò anche molte celebrità da lui, nel desiderio di aiutarlo a vivere serenamente i suoi ultimi giorni. Il titolo del libro era «Ho chiesto di avere le ali», il nome dell'autore Anthony Godby Johnson. Tony viveva con la madre adottiva, Vicky Johnson, una santa donna che l'aveva salvato da un'orribile esistenza di maltrattamenti e abusi sessuali inflitti dai genitori biologici. A 11 anni aveva scoperto di avere contratto il virus e al momento dell'uscita del libro le sue condizioni si erano aggravate. Ma con l'aiuto della Johnson, di suo marito e di un gruppo ristretto di adulti premurosi e colmi di ammirazione, tra cui un operatore dell'Arkansas nel campo dell'assistenza ai malati di AIDS, Jack Goodbye, da cui Tony aveva preso il nome, sfruttò al massimo il poco tempo che gli restava. Vicky lo aveva sempre incoraggiato a mettere su carta i propri sentimenti e quando la fondazione Make-A-Wish gli comprò un computer, sapendo di avere i giorni contati, si mise all'opera e riuscì a completare le sue memorie. Il Misery Memoir era in gran voga, ma il suo non era tanto il racconto di un bambino chiuso in cantina dal padre e violentato da pedofili, sebbene a suo dire questa era stata la sua infanzia, quanto piuttosto una toccante storia di redenzione su quanto fosse meravigliosa la sua nuova madre e su come l'amore per la letteratura lo avesse aiutato nei momenti bui. Uno degli scrittori che amava di più era Armistead Maupin, i cui racconti di San Francisco erano di recente andati in onda alla radio americana. Vicky lo incoraggiò a mettersi in contatto con lui e i due iniziarono una relazione telefonica che si rivelò di grande conforto e ispirazione per entrambi. Chiunque abbia letto Una voce nella notte di Maupin, basato sulla sua esperienza con Tony, o visto la versione cinematografica con Robin Williams, saprà come sono andate a finire le cose. Perché sebbene la donna si ostini ancora oggi a giurare di aver avuto un figlio adottivo sieropositivo che ha scritto un libro, tutti coloro che hanno indagato sul caso sono sicuri che si tratti di una bufala. Tony comunicava esclusivamente per lettera, fax, telefono o posta elettronica e quando chiamava gli amici per una delle sue lunghe, digressive chiacchierate, la voce non solo sembrava molto femminile, ma parecchio simile a quella di Vicky. Terry Anderson, socio in affari di Maupin, era da tempo convinto che Vicky e Tony fossero la stessa persona. Maupin, che aveva conversato per ore con il saggio e spiritoso Tony, era confuso. «Il mio cervello era diviso a metà. C'erano giorni in cui parlavo con Tony e pensavo, è chiaramente un ragazzo, perché dovrei dubitarne? E altri che pensavo, è lei». L'agente Rob Bernstein, che rappresentava Tony ed era in procinto di vendere i diritti della sua storia all'emittente televisiva HBO, a metà degli anni 90 si trovò a lavorare anche con Maupin e quando i due uomini presero a parlare della loro comune conoscenza, nella testa di entrambi suonò un campanello d'allarme. Nessuno aveva mai visto il ragazzino perché Vicky diceva che era troppo sensibile ai germi per ricevere visite o uscire all'aperto. Ma durante le telefonate al cellulare, Maupin udiva chiaramente i rumori della strada. Altri sostenitori di Tony, incluso un rabbino, erano volati in New Jersey per andare a trovare il giovane scrittore sofferente ed erano rimasti fuori dalla porta perché Vicky si rifiutava di far entrare chiunque nel suo appartamento, un appartamento del resto in cui nessun vicino aveva mai visto entrare un bambino e da cui non provenivano rumori che ne facessero sospettare la presenza. Quanto al marito, nessuna tra le molte persone che abitavano nei pressi del palazzo in centro città o che erano clienti abituali della farmacia al pian terreno lo aveva mai incontrato. Poiché Tony non poteva mostrare il proprio volto in pubblico o affrontare una troupe, la produzione dell'HBO venne cancellata e uno speciale di Oprah Winfrey, dedicato agli abusi sui bambini, lo sostituì con un attore. Sul finire degli anni 90, Tony annunciò sul suo blog che stava patendo una serie di malanni fisici sempre più terribili. Paralisi, un colpo apoplettico, l'amputazione di una gamba, l'asportazione di un testicolo e la tubercolosi erano solo alcuni di questi. Eppure, malgrado avesse sviluppato l'AIDS da quasi 10 anni, era ancora vivo e vegeto. Maupin, che aveva scritto un risvolto di copertina per il suo libro, iniziava seriamente a dubitare che un ragazzino immunodepresso potesse superare tante nuove disgrazie. Diventava sempre più melodrammatico, ammise in seguito, e i miei dubbi man mano aumentavano. Nel 2000, dal momento che nessuno dei suoi amici famosi si erano aggiunti alla lista Jermaine Jackson, il fratello maggiore del più noto Michael, nonché ex bassista dei Jackson 5, lo scrittore Tom Robbins, lo aveva mai visto, ne aveva mai sentito parlare Vicky in sottofondo durante le loro telefonate, il programma di informazione dell'ABC 2020 decise di indagare. Contemporaneamente, anche il giornalista del New Yorker, Ted Friend, si stava occupando del caso del ragazzo invisibile e insieme raccolsero prove convincenti a sostegno della tesi che Tony era solo il parto della fantasia di Vicky. Saltò fuori che quest'ultima si chiamava in realtà Joanne Vicky Freginals ed era un ex insegnante solitaria e sovrappeso che abitava a Union City, nel New Jersey, in un appartamentino sopra un negozio. Gli ex colleghi e gli alunni della Sacred Heart Grade School di North Bergen la ricordavano fortemente coinvolta in ogni aspetto dell'educazione dei suoi scolari, spesso pronta a offrirsi volontaria per dare una mano in qualunque attività extracurriculare, ma piuttosto incline all'autocommiserazione quando si trattava della propria vita privata. Non c'era traccia di un marito, finché poco tempo dopo l'uscita del libro non si legò a un uomo di nome Mark Zuckheim, uno psicologo dell'infanzia, il cui lavoro con i ragazzini problematici rischiò di interrompersi bruscamente quando venne processato con l'accusa di aver abusato di alcuni bambini in una casa famiglia dell'Indiana nel 2004. Quando fu prosciolto, il sito web di Tony era da tempo inattivo e nessuno, a parte il consulente sull'AIDS dell'Arkansas che ne condivideva il nome, riceveva più telefonate da quella strana voce effeminata. Nel 2007, un'ulteriore inchiesta dei curatori di 2020, che per primi avevano portato a galla la doppia vita della donna, aggiunse una nuova prova al loro dossier. Una delle rare fotografie di Tony che i giornalisti avevano avuto il permesso di vedere e che mostrava un ragazzino dai capelli neri e dall'aria sveglia, con un sorrisetto insolente e un cappellino da baseball, si rivelò una vecchia istantanea scattata da Vicky a uno dei suoi ex alunni, Steve Tarabocchia. La madre di uno dei compagni di classe di Tarabocchia aveva visto l'immagine alla televisione e lo aveva avvisato. Lui, un 25enne in ottima salute, rimase sbalordito quando scoprì che la sua faccia veniva usata per dar volto alla storia di un giovane malato di AIDS. Così, per ristabilire la verità, partecipò al programma dell'emittente privata ABC, accompagnato da un altro ex allievo della Sacred Heart, il quale confermò che, sebbene Vicky fosse una donna gentile, cercava ossessivamente di attirare l'attenzione. Di fronte a questa prova apparentemente inoppugnabile, ci si sarebbe aspettati una confessione e delle scuse verso le persone che la donna aveva raggirato. Ma tutto quello che la famiglia Zuckheim presentò fu un documento legale con una dichiarazione giurata che Tony esisteva davvero. La ragione per cui lo tenevano nascosto non era soltanto il suo pessimo stato di salute, ma il fatto che alcuni malvagi pedofili stavano tentando di rintracciarlo per impedirgli di identificarli. A tutt'oggi, Vicky non ha mai ammesso di aver mentito. Tuttavia, pensando alla vita del suo giovane alter ego, deve essersi resa conto che il suo errore più grosso era stato non informarsi abbastanza da sapere che se si può vivere per molti anni con l'HIV, in nessun modo, a maggior ragione agli inizi degli anni 90, quando le terapie farmacologiche erano molto meno sofisticate di adesso, un ragazzino con l'AIDS conclamato poteva resistere a lungo quanto Tony. Un altro errore consistette nel contraffarre la sua voce al telefono. Quando l'ABC ingaggiò lo stesso esperto di analisi acustico-vocale che aveva identificato Osama Bin Laden su un gracchiante nastro registrato, questi concluse che Vicky e Tony erano evidentemente la stessa persona. La donna avrebbe potuto organizzare la sua truffa con maggior cura se non fosse stata una povera illusa, disperata e ferita, ma non avrebbe comunque potuto sperare in una risposta o in una vita letteraria ultraterrena migliore di quella che le ha offerto Armistead Maupin, il generoso scrittore americano felice di aiutare un bambino nel momento del bisogno e che non lo ha mai abbandonato, nemmeno quando ha compreso che non esisteva. Come ha dichiarato dopo che l'imbroglio di Vicky fu svelato, penso che Tony fosse per lei un amico immaginario. Di certo, lo è stato per me. Avete ascoltato la lettura di un capitolo da Il libro dei grandi bugiardi, l'avventura millenaria dei falsi letterari, di Melissa Katsoulis, Rizzoli Editore, 380 pagine, 18,50 €. La scienza ci ha allungato la vita e ora cerca di riempircela come può. I giapponesi hanno brevettato un orsetto di peluche per anziani soli, con una telecamera nel naso che spia la depressione del padrone e prova ad alleviargliela, con gesti programmati per sembrare spontanei. Se il padrone è triste, l'orsetto gli fa ciao con la zampa. Se il padrone piange, l'orsetto gli porge un fazzoletto. Non esiste nulla di più triste di un giapponese che si sforza di guarire la tristezza altrui. Però il tema è serio. Riguarda la vera rivoluzione del nostro tempo, altro che iPad. Gli anziani che vivono sempre di più e sempre più soli. Ovviamente la soluzione non può essere un robot di peluche, ma è altrettanto retorico appellarsi alla mancanza di calore umano. L'anziano da orsetto non ha tutta questa voglia di compagnia. Si annoia, certo. Gradisce una telefonata o una visita breve, poi però preferisce ripiombare nella sua solitudine, che lo deprime ma al tempo stesso gli toglie ansia. L'anziano da orsetto è tale proprio perché non ha più voglia di relazionarsi con gli altri. Il mondo di fuori gli interessa poco. È concentrato sui propri ricordi e sulla propria decadenza fisica, di cui tiene una contabilità costante e spietata. Non coniuga i verbi al futuro. Ed è questa attitudine a renderlo anziano. Non l'età, non gli acciacchi, ma il rifiuto di aprirsi al nuovo. L'importante è che la morte mi colga vivo, ebbe a dire quel delizioso umorista di Marcello Marchesi, coniando una delle mie tre frasi preferite. Vivo e senza orsetto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Massimo Gramellini, L'orsetto della solitudine, dalla Stampa del 7 aprile.